Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria che, come sempre, venerdì avrà in scaletta anche la poco invidiabile classifica della settimana. Due altre notizie di cui ci occuperemo. Una riguarda l'ILVA, anche perché pur non essendo ancora definitiva, nel senso che non c'è l'ufficializzazione, però l'accordata ArcelorMittal Marcegaglia è in testa nella gara per aggiudicarsi l'ILVA di Taranto. I commissari, infatti, Piero Gnudi, Enrico Laghi e Corrado Carrubba hanno consegnato al governo la graduatoria delle offerte, nella quale appunto l'accordata M Invesco Italy sarebbe in vantaggio sull'altra pretendente, ossia Acciai Italia, che dentro ha il gruppo Arvedi, la Cassa Depositi Prestiti, Delfin e gli indiani di Jindal, così come la prima accordata agli indiani appunto di ArcelorMittal. Ne parleremo più avanti, ripeto, non è la firma definitiva, ma insomma, stando a quello che hanno riferito i commissari, è in testa l'accordata ArcelorMittal Marcegaglia. L'altro tema riguarda invece le due banche venete, perché ce ne stiamo occupando da quando Sole 24 Ore ha avuto, tra virgolette, lo scoop di quella che sarebbe stata la posizione di Bruxelles. A mio avviso, lo dico come opinione personale, assolutamente incomprensibile, se non con un accanimento, nel senso che qua rischiamo di continuare a bloccare tutto il sistema bancario per due banche e per un'operazione che il governo ha già avviato, i famosi 20 miliardi del fondo salva banche, in cui una parte vanno a Monte dei Paschi e un'altra parte sarebbero andate, dovrebbero andare a Popolare Vicenza e Veneto Banca. Questa posizione è molto molto intransigente, molto dura. C'è chi dice che questa è l'indicazione che è arrivata da Olanda, Germania, per dire facciamo vedere che il bail-in si può applicare e usiamo l'Italia, tra virgolette, come cavia. Una cosa va detta: in questo momento io capisco la delicatezza della situazione, capisco anche che il governo non voglia riaprire il fronte Bruxelles, ma occorre forse una posizione ancora più netta del nostro ministro dell'economia e delle finanze Padoan, perché Zingales, l'economista Zingales, il nostro ospite 2-3 giorni fa, disse: io fossi nel ministro andrei avanti, farei e poi beccati, dammi la sanzione, vediamo la procedura di infrazione. Non possiamo tenere bloccato l'intero sistema bancario e soprattutto peggiorare nel frattempo la situazione delle due banche, perché è chiaro che il rischio della fuga, diciamo, dei correntisti e il fatto, insomma, che nel non sapere ancora se si riuscirà o no a ricapitalizzare queste due banche, cioè peggiora ulteriormente la situazione. Ma ripeto, io non ho capito perché, dopo tutte le operazioni degli altri, le abbiamo ricordate, Olanda, perché sono gli olandesi anche che fanno, diciamo così, cugini dei tedeschi in questo caso. L'Olanda ha speso 58 miliardi per salvare ING Direct a ABN AMRO, 38, scusatemi, mi correggo. La Germania 170 miliardi per le varie sparcasse e quant'altro. Si poteva fare, è vero, poi è stato introdotto il bail-in, però adesso non è che prima si è fatto la qualunque, come dicono a Milano. Non parlo dell'Irlanda, la Spagna ha aderito al fondo europeo di salvataggio, quindi ha avuto un altro canale, e adesso, diciamo così, viene fuori che un miliardo lo devono mettere i privati, che già, ripeto, hanno messo con il Fondo Atlante praticamente tutta la dotazione del Fondo Atlante, se n'è andata su Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Fondo Atlante che è finanziato dalle banche, non c'è un euro pubblico, per cui mi sembra che prima ci fosse la giungla e adesso ce la prendiamo anche con i dettagli. Ne parleremo comunque nella seconda ora del programma. Per quello che riguarda la borsa, meno 0,50% Milano, meno 0,11% Parigi, meno 0,20% Francoforte, più 0,40% Londra. Molto bene Mediaset, oggi più 4,60, Campari più 2,5, Moncler più 2,30, Leonardo più 2,11, Case New Holland più 1,40, Prismian più 1%, Recordati più 0,70. Fronte opposto, Salvatore Ferragamo meno 2,60, Eni meno 2,12, Intesa San Paolo meno 2%, Saipem meno 2, Mediobanca meno 1,90, Italgas meno 1,70, Biper meno 1,50, Tenaris meno 1,5, Ubibanca meno 1,40%, Telecom meno 1,20%. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Andiamo subito con le notizie in breve. E partiamo dall'economia statunitense, mentre appunto entra nel vivo il G7 di Taormina, G7/G20, e di questo vi stanno aggiornando i nostri inviati a Taormina. Il dato americano sull'economia nel primo trimestre, il PIL statunitense cresce più delle attese, più 1,2%, gli analisti scommettevano su un più 0,7%, la prima stima era uno 0,7%, quindi nettamente migliore delle attese, e anche il ruolo lo svolge la propensione al consumo degli americani, come ci ricorda nei 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma appunto del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Paterotti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. L'economia americana sarà anche ripresa, ma la voglia di spendere milioni di dollari per dei beni di lusso, non sembra essersi ripresa esattamente come si aspettavano in molti. La più grande sorpresa viene da un'asta che si è appena tenuta in Florida, parliamo di poche settimane fa, in cui era stata messa in vendita la Ferrari F430 del 2007 di Donald Trump, la F1, una Ferrari a cui Trump teneva molto, tanto da metterla in esposizione nella Trump Tower. Divenuto presidente, Trump ha deciso di mettere in vendita, forse per evitare polemiche inutili, ma il risultato non è stato esattamente quello che si aspettava. Le offerte per la Ferrari si sono fermate a $240,000, $10,000 al di sotto di quello che era il prezzo minimo fissato per la vendita. Ora ci si proverà nuovamente tra qualche settimana in una nuova asta, ma in realtà non è stata l'unica quella di Trump a non essersi mossa dal prezzo di partenza. Una Porsche del 74 Carrera 2.7, una BMW 3.0 del 70 e un altro gioiello, un Aston Martin, tutte invendute con offerte che si sono fermate fra i 10 e i $20,000, quindi non di molto, al di sotto della soglia fissata dal proprietario. Comunque sia, una cosa è certa, anche queste icone in momenti incerti come questo rischiano di restare ferme in garage, a meno che sia tutta una scena in attesa di un taglio delle tasse che Trump ha promesso ma che deve ancora mantenere. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Dicevamo del vertice del G7 in corso Taormina, nei GR vi stanno aggiornando sia il nostro Sergio Nava che la nostra Elisabetta Fiorito. Faccio notare che sui temi economici, insomma, il consigliere economico della Casa Bianca Gary Cohn ha detto oggi che è improbabile che Trump revochi le sanzioni alla Russia, quelle decise dall'amministrazione Obama. C'è ancora un po' di polemica sullo Spiegel, che ha riportato una frase che avrebbe detto Trump: i tedeschi sono cattivi, molto cattivi nel criticare il surplus commerciale della Germania. Guardate quanti milioni di auto vendono negli Stati Uniti, spaventoso, lo fermeremo. Juncker ha difeso i tedeschi, contraddicendo Trump, ma poi ha cercato di smussare le polemiche. Berlino risponde: un bilancio commerciale non è né buono né cattivo. Questo sulla domanda se il surplus commerciale sia buono o cattivo. La posizione del governo tedesco in proposito è nota, non può essere influenzata da misure politiche. Allora, insomma, la frase di Trump, se l'avesse detta, è una frase che non si dice, per il ruolo che ha Trump. Dopodiché, che la Germania faccia orecchie da mercante su una cosa macroscopica, e cioè lo squilibrio che la Germania stessa rappresenta in Europa, rispetto a quello che sono i suoi investimenti, nessuno sta dicendo che non devi esportare, ma il problema è quanto importi e quanto anche investi. Se tu hai come obiettivo il deficit a zero e continui a non spendere per investimenti, abbiamo il famoso esempio del fratello che grazie a lui è ricco, o del cugino è ricco e non spende per la casa in cui abita con gli altri cugini, neanche per la manutenzione, e poi gli altri cugini che invece sono poveri e devono risparmiare perché sono indebitati, vedi il caso dell'Italia, a cui è chiesto di non spendere. Allora, se non spende, giustamente chi si è indebitato, non spende neanche chi ha molti soldi nel conto corrente, per usare l'esempio della Germania, è ovvio che poi la casa va a pezzi, parliamo dei consumi interni. Si dice la Germania e il governo di Berlino fa orecchie da mercante perché nessuno dice di ridurre l'export, ma si dice perché non hai un piano di investimenti serio, anche infrastrutturali, che comporterebbero un aumento della domanda interna e quindi anche un aumento delle importazioni, perché qualche bene lo comprerai anche da fuori. Dopodiché, secondo me, i tedeschi non sono abituati a essere criticati, diciamo, in maniera così netta, anche perché nel resto d'Europa, a parte qualche partito d'opposizione, tutti sono molto attenti a non disturbare la Germania. Comunque, veniamo all'Italia. Fiducia e imprese in calo a maggio, prima flessione d'agosto, questo per quello che riguarda i dati dell'Istat, scendono tutte le componenti, è la prima flessione d'agosto del 2016. Buono il dato invece sull'andamento del fatturato dei servizi, più 1,6%, la variazione anno su anno è del 4,5% e rappresenta un record dalla serie storica, che inizia però nel trimestre del primo trimestre del 2011. Sui voucher c'è ancora polemica, al di là della posizione presa da Bersani e da D'Alema. Oggi anche il segretario della CGIL Susanna Camusso dice: se i voucher dovessero essere reintrodotti, abbiamo detto e ribadiamo che noi ricorreremo alla Corte Costituzionale perché c'è un'evidente lesione della carta e delle sue regole. Allora, io spero che la soluzione non sia pasticciata, quella del governo. Sicuramente è stata la decisione del governo di levare i voucher per evitare il referendum, è stata una calata di braghe, l'abbiamo detto in tutti i modi. Perché voglio dire, i voucher sono stati usati male, è certo, in alcuni casi, vista l'esplosione, sono mancati i controlli, era mancato nell'introduzione dei voucher, erano mancate dei paletti più stringenti, e tutto questo andava migliorato. Ma levare per i lavoretti, perché da lì iniziava l'idea dei voucher, studenti o pensionati e anche persone che magari non stanno cercando, non riescono a trovare un lavoro nemmeno con un contratto a tempo determinato, penso alle ripetizioni, cioè, si va a riconsegnare tutto quel mondo nel nero, vale per le badanti occasionali o per le, diciamo, golf occasionali, vale per gli insegnanti che fanno le ripetizioni, vale per i pensionati che fanno altri lavori, si va a riportare tutto quello nel mondo nero, come la CGIL sa benissimo, perché usò in maniera corretta decine di migliaia di ore di voucher con i pensionati, per cui la CGIL ha fatto bene, non ne ha abusato, ma le hanno fatto gli imprenditori che ne hanno abusato e hanno trasformato rapporti lavoro continuativo, diciamo, in voucher. Ma buttare via i bambini con l'acqua sporca è stato un errore gravissimo, come se in questo paese non vi fosse il lavoro nero, nell'illusione che elimini i voucher e tutti vengono assunti a tempo indeterminato. Allora, ci aspettiamo reazioni dai tassisti, lo dico prima che arrivino, perché oggi il Tribunale di Roma ha revocato la propria ordinanza del 7 aprile scorso, in cui aveva bloccato su tutto il territorio nazionale il servizio Uber Black e l'oscuramento dell'applicazione Uber Black. Il gruppo Uber quindi potrà, il Tribunale ha accolto il reclamo, respingendo il ricorso ai tassisti, potrà dunque continuare ad operare in Italia mediante il servizio Uber Black. Gli altri servizi Uber Pop e Uber X continueranno invece a essere vietati. Siamo davvero felici, dicono da questo punto di vista il commento di Uber, per questa decisione. Io dico semplicemente, poi le categorie che rappresentano i tassisti valuteranno se il fatto che siano ancora bloccati Uber Pop e Uber X sia sufficiente o no sulla loro protesta, quello che si chiede, come in altri casi, è che la protesta, sciopero, così, avvenga con rispetto dei clienti e quindi non con le famose agitazioni selvagge, astensioni spontanee che poi però fanno tutti perché gli altri hanno paura di essere minacciati dai colleghi. Quando se decideranno, ci comunicheranno la data e uno si organizzerà per tempo, perché tutte le categorie hanno diritto a protestare, a scioperare, ma tutte devono rispettare anche quella che è la legge, anche sugli scioperi, a maggior ragione quando ti vanti di essere giustamente un servizio pubblico, non solo, diciamo, un servizio privato. No, io non sono d'accordo con chi mi scrive che se uno sciopero non crea disagio non serve a nulla. Il disagio lo crei anche se annunci che venerdì prossimo o martedì prossimo fai sciopero. E questo vale per le altre categorie. Non blocchiamo il sindacato dei trasporti, non blocca in maniera selvaggia, tranne che in alcuni casi appunto sanzionati, il trasporto. Io non è che posso arrivare in stazione e scoprire che il treno non c'è, non posso chiamare un taxi e senza essere preavvisato scoprire che il servizio non c'è. Poi mi organizzerò, il disagio ce l'ho ugualmente, perché è chiaro che se ne avevo bisogno continuerò ad averne bisogno, ma almeno mi organizzerò. No, questa è un'idea che hanno solo i tassisti, che se non c'è un disagio, se non c'è il, come abbiamo visto molte volte, il cittadino che arriva e scopre che all'improvviso non ci sono i taxi, lo sciopero abbia efficacia. Anzi, in molti casi questo ha spinto ancora di più verso Uber. Comunque andiamo avanti. Una licenza di taxi a Venezia viene pagata in nero 800.000 euro. Non lo so, mi scrive un ascoltatore. Non conosco il caso e non me ne occupo. Non lo conosco veramente. Le banche, qualcuno mi continua a scrivere delle banche. Sì, sono un po' sotto pressione, non drammatica, ma perché pesa la vicenda delle banche venete, dei consigli di amministrazione in corso. Intesa San Paolo perde il 2%. Paradossalmente sono sotto pressione proprio le banche, che Unicredit meno 1%, che col Fondo Atlante hanno garantito la continuità alle vente. Mi scrive un ascoltatore, anche oggi hai perso l'occasione per fare bella figura, ma lei immagino sia un tassista, dice che sto dalla parte dei più forti, ma ho solo letto la notizia del tribunale, ma che vuole onestamente? Ho detto che avete tutti i diritti di fare sciopero, poi guardi, onestamente, penso di essere un buon cliente dei taxi, quindi proprio a me non mi potete dire nulla sul fronte di quanto utilizzo i taxi, e personalmente non ho mai usato Uber in vita mia, poi, non so, ma non per una scelta ideologica, non mi è mai successo. Ancora le banche venete, dicevamo, Mion, il presidente della Polo di Vicenza, siamo nelle mani del governo, ha convocato il consiglio di amministrazione dopo il diktat dell'Unione Europea, è arrivato veramente come una doccia fredda, nessuno se lo immaginava, ci sembrava abbastanza chiusa sta cosa, la Vestager ha voluto fare la tignosa. Smentite invece le voci di possibili dimissioni di Fabrizio Viola al consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza. Guzzetti, il presidente di Caripro e delle casse di risparmio delle fondazioni bancarie, ha detto attenzione, noi sulle banche venete non potremo mettere nemmeno un euro in più. (Sussurra) 349 238 6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo subito sul metodo della pubblicità e poi la poco invidiabile classifica della settimana, la startup e la vicenda, da un lato Ilva, dall'altro banche, appunto venete. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino vi presenta Focus Economia. La classifica della settimana. 17:34 minuti. Allora partiamo subito, devo dare un aggiornamento d'agenzia. Campo Dall'Orto, e quindi direttore generale della RAI, ha rimesso il mandato dopo l'incontro con il ministro dell'economia e finanze Piercarlo Padoan, era ampiamente atteso dopo che è mancata la fiducia nel consiglio di amministrazione. Dunque, andiamo subito alla classifica. Non mettiamo nella classifica, è una vicenda giudiziaria, ma la voglio citare, ne ha parlato anche ieri Simone Spezia, il mitico TAR del Lazio. Io capirò che questo paese è cambiato quando non ci sarà più il TAR del Lazio a decidere e annullare qualunque tipo di sentenza. A parte il fatto che la cosa incredibile, che dovrebbe far vergognare anche il TAR del Lazio, sono i tempi, che qui parliamo di una misura di 2 anni fa. Cioè, tu annulli la validità di 5 direttori nei musei italiani, poi i motivi sono che alcuni perché erano stranieri, altri perché il bando non poteva ammettere la partecipazione al concorso di cittadini non italiani, nessuna norma consente di derogare dal reclutare di derogare alla norma di non reclutare dirigenti pubblici oltre Alpe, e poi altri invece per il tipo di colloquio, uno è stato fatto via Skype perché era in Australia o negli Stati Uniti, no, era meglio fargli pagare o pagarci noi il viaggio suo. Ma al di là delle motivazioni del TAR del Lazio, come si fa a accettare che un TAR decida 2 anni dopo, quando questi direttori sono già insediati e hanno operato? Poi sulla valutazione sapete come la penso. A me interessa il famoso principio di Wimbledon: non che vinca un inglese, ma che si giochi il miglior torneo di tennis al mondo in Inghilterra. Questo è il principio economico. A me interessa che i musei italiani fatturino, guadagnino. Pensate che la stragrande maggioranza non avevano neanche un negozio interno con libri, cataloghi e il cosiddetto merchandising, la stragrande maggioranza quando sono arrivati questi direttori. Comunque, faccio notare che italiano o straniero non cambia, in parte che sia bravo, e lo scegli dove c'è un mercato. Per inciso, ferma restando la bravura dei direttori, delle direttrici italiane, dei musei, e infatti interessati a questa sentenza ci sono anche Peter Assmann del Palazzo Ducale di Mantova, Martina Bagnoli delle Gallerie Estense di Modena, Paolo Giulierini dei Musei Archeologici di Napoli, Carmelo Malacrino di Reggio Calabria e Eva degli Innocenti a Taranto. Faccio notare che nello specifico gli stranieri, allora, Peter Assmann a Mantova ha portato il Palazzo Ducale a scalare 10 posizioni nella classifica dei musei più visitati, più 51%, ma infatti va mandato via. A Urbino Peter Hofreiter ha fatto più 40% al Museo Ducale. Brera, James Bradburn, non è coinvolto nella lista, più 5,5%. Capodimonte, più 120%. Bellinger, Pestum, ha fatto più 53% di incassi e è già più 25%. Evidentemente li hanno scelti bene, ma una volta tanto che vengono scelti bene, italiani o stranieri, no, arriva il TAR del Lazio. Ma andiamo invece al paese, non so, che vorrebbe il TAR del Lazio, forse. Quello che vi sto per raccontare è il quinto posto. I problemi del paese, si sa, sono tanti, ma giustamente ci occupiamo dei principali. Allora, l'INPS è riuscita, non sto scherzando, a levare a un reduce alpino di 95 anni, reduce della campagna di Russia, vive dal 1942 con 2 schegge di metallo nel corpo. L'INPS gli ha revocato l'assegno, certo, perché gli ha chiesto anche di pagare gli arretrati. Prima ha cancellato il contributo di guerra della voce pensione, poi ha chiesto indietro all'alpino i denari versati nell'ultimo anno come integrazione della pensione. Quindi Serafino Preda, 95 anni, non ha fatto una piega, dovrà ritornare 200 euro, ma questo è il paese, 203,13 euro, vale dire poco più di 8,8 euro al mese. Perché è il divieto di cumulo sancito dalla legge Fornero. Lui dice vabbè, perché non gli si riconosce il servizio di prima linea. Lui palesemente e laconicamente ha dichiarato: la guerra l'ho fatta, malgrado quello che dice l'INPS. Ma come non unire questa notizia con quello che ha fatto invece il mitico sindaco di Inzago, provincia di Milano? Lui si chiama Andrea Fumagalli, vicino alla Lega, ex berlusconiano. Quest'anno per il 25 aprile aveva deciso di limitare le celebrazioni ufficiali a una messa e un momento di ricordo per tutti i morti della Seconda Guerra Mondiale nel cimitero cittadino. Ma ci mancherebbe, va benissimo la messa per tutti i morti, e se parliamo della guerra civile anche per i morti della Repubblica Sociale. Dopodiché uno ricorda che alcuni combattevano per il fascismo e il nazismo, altri per liberare l'Italia dalla dittatura e farci avere la democrazia, che permette anche a Andrea Fumagalli di essere eletto in maniera democratica. Ma questa è una valutazione politica. L'AMPE a quel punto cosa fa? Decide di fare un suo corteo e dice: partiamo alle ore 10 e 30, 10, dal comune fanno sapere che non potevano partire alle 10 ma alle 10.30, scusatemi, perché rischiavano di arrivare al cimitero dove era ancora in corso la cerimonia voluta dal sindaco, che l'ha voluta lui, no? Allora, che cosa succede? Il corteo alla fine parte non quando aveva detto, parte un quarto d'ora prima, arriva comunque al cimitero, immagino camminando molto lentamente, con il sindaco che ha già fatto la sua messa per tutti i caduti, perché ideologicamente è contrario alla resistenza e ai partigiani. Perfetto. Sapete che cosa succede ai partigiani che hanno partecipato al corteo? Che i vigili di Inzago fanno recapitare una multa da 1.000 euro perché il corteo è partito un quarto d'ora prima dell'orario imposto dall'amministrazione comunale di centrodestra. Bravo. Andrea Fumagalli, ok, avanti così. Andiamo al quarto posto, voilà. Al quarto posto ce la caviamo subito, però un po' che non avevamo i falsi ciechi. Però questo falso cieco, i falsi ciechi purtroppo ce ne sono. È che questo falso cieco le batte tutte, eh. Non è al sud, è a Mantova. Ha già patteggiato 2 anni di pena, 2 anni di reclusione con una multa di 600 euro. Perché? Perché lui si dichiarava falso cieco, ha percepito una pensione di inabilità e indennità di accompagnamento per 15 anni, quindi da quando ne aveva 19. Oh. E tu dici, qual è il problema? Il bello è che lui era un appassionato di Vespa. Vespa, non il giornalista, la Vespa, la due ruote. Tant'è che partecipò anche al Vespa Day del 2014 a Mantova e gli hanno sequestrato, dopo quando hanno fatto le indagini, anche 3 veicoli, 3 Vespe, le collezionava. E il falso cieco infatti è stato ripreso mentre svolgeva normalmente le sue attività quotidiane, tra cui girare alcuni motocicli di sua proprietà. Ora, oltre che falso cieco, un vero stupido, nel senso che uno dichiara per 19 anni di essere cieco e colleziona Vespe e gira con la Vespa per Mantova, che non è New York, ti beccano prima o poi, partecipa pure a Mantova al raduno, il Vespa Day del giugno 2014. Ma voglio dire, voi direte, oggi c'è poco di economico? No, ce n'è. Infatti andiamo al terzo. Oh, come farci mancare l'ATAC, o è l'ATAC o è l'AMA, e l'ATAC è oggi. Che cosa sta succedendo all'ATAC? Che nonostante tutto quello che stiamo dicendo, nonostante il 1.400.000.000 di buco, i dipendenti dell'ATAC, o meglio alcuni, ma insomma, non ne vogliono sapere di capire che la situazione in un paese normale sarebbe già da commissariamento e liquidazione. Allora, no, abbiamo raccontato di tutto in questi anni sull'ATAC, anche da differenza su qua, insomma, la TM milanese ha un utile e conti a posto, parco mezzi snello con poco più di 8 anni, abbiamo raccontato anche del numero ore in cui l'ATAC riesce a battere, tra virgolette, non solo Milano, ma anche Napoli, cioè gli autisti dell'ATAC guidano meno degli autisti napoletani oltre che degli autisti milanesi, ma sentite questa. Allora, hanno rifatto il calcolo sul personale che non si presenta al lavoro, alcuni per malattia, altri per maternità, altri per congedi parentali, altri per altri motivi, e poi c'è la legge 104. Io rispetto tutto, ci mancherebbe la malattia, a maggior ragione la legge 104 e quant'altro, però non possiamo dire che la malattia colpisca in maniera così diversa un dipendente dell'ATAC da un dipendente della TM milanese, a parte il fatto che il clima, se vogliamo, non è certo peggiore a Roma rispetto a Milano, se dobbiamo parlare di malattie, influenze, gelo e quant'altro, inquinamento. Ma vi sembra possibile che, voglio dire, la TM, la prendo apposta perché come grandezza la città di Milano, cioè di Roma, Roma è più grande, la TM ha una percentuale di assenza dal lavoro del suo personale operativo pari al 5,7%, l'ATAC ce l'ha del 12%. Allora, immaginando che ci sia anche un tasso, ahimè, anche dentro la TM di false malattie, di chi se ne approfitta, di chi si fa fare il certificato, di chi abusa, ma com'è possibile che sia il doppio? Ma 12% su 11.600 persone, levando i ripositi settimanali, per cui la forza effettiva al lavoro è 2/3, vuol dire che ogni giorno mancano 930 persone, cioè 930 dipendenti. L'ATAC ha 12.000 dipendenti, 11.600. In questo modo 930, levando anche la parte che è in turnazione, quindi è in riposo per turno, levando quello, restano a casa ogni giorno 930 dipendenti. A me sembra una cifra folle, no, cioè, con 1000 Garibaldi ha conquistato il sud. Attenzione a non confondere tra malato e inidoneo al servizio, perché lo diventa chi deve essere riassegnato ad altro incarico. Per esempio, la scorsa estate vennero controllati 160 dipendenti che avevano ottenuto in precedenza il cambio di destinazione per problemi fisici. Di questi, su 160, che voglio dire, sono anche dei bastardi, perché poi chi ha un vero problema fisico finisce in questo calderone, cioè sviliscono anche, come dicevamo ai tempi della legge 104, i veri drammi e i veri problemi, le vere malattie, le vere diciamo limitazioni fisiche. L'80%, fatti i controlli, su 160 è risultato del tutto guarito, quindi abile, tanto da poter tornare alle originarie mansioni. Io non so più che cosa debba accadere, forse cambiare tutto, perché i sindacati dell'ATAC che gestiscono la mensa, il dopolavoro, le merendine, tutto, non so, capiscano che è un miracolo che siete ancora vivi in questo modo, diciamo da un punto di vista operativo e chiaramente da un punto di vista del fatturato, con 1.400.000.000 di debito e con tutti i miliardi che l'ATAC si è mangiata di soldi pubblici per le varie ricapitalizzazioni in questi anni. 930. Allora, se l'ATAC riesce a garantire il servizio così, vuol dire che ci sono 1000 persone in più a casa mia. È ovvio che è un'estremizzazione, perché tu un tasso di malattia ce l'hai sempre, ma dico, prendiamo l'ATM, il 5 vorrebbe dire che da 930 scendi a 400. Vabbè, dai, andiamo sul traffico. Focus economia. Dice a 7:49 minuti, vedo che molti chiedono anche il licenziamento, comunque indagini sui medici, nel caso specifico quello di Mantova, del finto cieco. Sì, è vero, becchiamo sempre i finti ciechi, giustamente, quando li becchiamo, ma mai il medico che ha fatto il certificato, eh? No, voglio dire, avete ragione, vale anche per le finte malattie, nel caso specifico parlavamo dell'ATAC. Andiamo al secondo posto, in realtà oggi abbiamo un ex equo. Tra secondo, sì, ex equo. Allora, secondo posto, da un lato la Puglia, governatore Emiliano. Noi siamo qua che ancora ricordiamo la sua battaglia per i 220 ulivi da spostare temporaneamente per la TAP. Una battaglia totale, non si è mai capito che cavolo c'entrasse. Governatore Emiliano, se proprio vuole occuparsi dell'agricoltura della sua regione, ci può spiegare, lo dico con massimo rispetto, come mai i forestali regionali pugliesi dipendenti dell'ARIF, Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, sono 1200, ma soprattutto l'ARIF viaggia con 16 milioni di euro di perdite l'anno. Perché? Perché, guardate, l'ARIF riesce ad avere entrate per 3 milioni 600 euro l'anno e uscite per 20 milioni. Io penso che arrivare a un pareggio nell'agenzia regionale che si occupa delle attività irrigue forestali permetterebbe a Emiliano di avere la bellezza di 16 milioni di euro in più. 1200 dipendenti, perché negli anni furono fatte assunzioni valanga. L'ente ha compiti fondamentali come la salvaguardia dei boschi e la gestione irrigua delle campagne. Peccato che, tra l'altro, i 16 milioni che ha perso sono 2 milioni in più dell'anno prima, per cui andando avanti di questo passo, complimenti. Allora, c'è stato infatti il commissario straordinario dell'ARIF, Domenico Ragno, ha diffuso questi dati sul tavolo della quarta commissione regionale, convocata per capire a che punto sono i lavori di manutenzione dei 2500 km di rete a pochi giorni dall'inizio della stagione irrigua nelle campagne pugliesi. Cioè, di solito con l'estate hai bisogno di acqua, la traduco così. 2500 km, allora, palese obsolescenza tecnico-funzionale delle strutture irrigue, per assenza di reali investimenti, disfunzione nella distribuzione di acqua per rottura delle reti di distribuzione degli idranti, i danni subiti dai furti, centinaia all'anno sulle condutture, nelle campagne si ruba di tutto, idranti, pompe, quadri elettrici. I danni per furti all'Arif ammontano a 300.000 euro l'anno. Poi però, se tocchi 220 ulivi, sembra che stiamo parlando di Heidi e delle valli di Heidi e Peter, no? Ma va bene così. Ancora, le spese maggiori riguardano il personale. Per portare a casa 3.600.000 euro dalla vendita di acqua, l'Arif spende 9.650.000 euro per il personale fisso, 2 milioni e mezzo per il personale interinale, 6 milioni e mezzo per i consumi energetici e 756.000 euro per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli stipendi non sono male, si arriva fino a 1.900 euro, metà dei quali hanno 500 euro al mese, parlo degli operai, gli operai specializzati. Ma io dico, ma come si fa a spendere 6 milioni e mezzo di consumi energetici per portare l'acqua, per incassare 3 milioni e 600 mila euro dall'acqua? Guardate che strano, eh? Emiliano, 16 milioni di pete l'anno. Ma la voglio mettere, quanto ho, due minuti, ex aequo al secondo posto, perché il primo ce la prendiamo direttamente col governo e spero che mi vada bene, insomma, non col Ministero degli Interni, Minniti, ci voglia bene. E soprattutto non ce la prendiamo, mettiamo in evidenza qualcosa con la Polizia di Stato. Allora, sapete dove conviene non pagare le multe? A Napoli. Non so, la battuta è facile, ma è mai possibile che a Milano si paghino mediamente a testa a residente 140 euro di multe l'anno, a Firenze 110, a Parma 107, a Bologna 103, a Rimini 72, a Brescia 71, a Roma 60, certo. E poi arrivi a Bari, a Napoli, in cui ogni cittadino, cioè il comune, riscuote di multe pro capite per ogni residente 30 euro, 32 a Bari e 31 a Napoli, un quinto rispetto a Milano. Stiamo parlando per residente. Allora, o diciamo che a Milano, tutto a Milano, a Parma, a Firenze, tutti mettono le macchine in doppia fila sul parcheggio handicappati, passano col rosso sulle strisce pedonali, infatti è noto, e a Napoli, a Bari invece, diciamo, c'è un modello da Innsbruck, oppure il problema è la riscossione. Allora, sapete, già Gianni Trovati ci spiegò due anni fa che in Italia mancano 32 miliardi di riscossione, ma se tu pigli una multa, se il comune deve riscuotere a Bergamo, il 92% lo becca, cioè riesce a riscuotere il 92% delle multe, l'87% delle multe le riscuote il comune di Bolzano, a Sondrio l'82%, a Massa, ci sono anche eccezioni al sud, Enna, Barletta, Sassari. Napoli è al 95esimo posto, riesce a riscuotere il 36,4% delle multe. Praticamente solo un napoletano su 5 paga i verbali al codice della strada. L'anno scorso, su 80 milioni di contravvenzioni fatte, il comune è riuscito a raccogliere solo 16 milioni. Mancano alle casse del comune di Napoli 480 milioni nuovi, perché ha avuto, diciamo, ha fatto sostanzialmente una specie di sanatoria su quelle vecchie. Mancano 480 milioni. E meno male che De Magistris ha lanciato la nascita di Napoli Riscossione, cioè non userà più Equitalia, andrà solo su Napoli Riscossione. Continua a lamentarsi che il comune di Napoli ha un conto bloccato dal governo per 80 milioni per un pignoramento da un commissariamento post remoto, verissimo, però voglio dire, a Benevento, nel comune di Puglianello, addirittura le multe d'autovelox valgono il 10%. Ma com'è possibile che riscuotiate solo, ripeto, una cifra ridicola, ridicola, 15 milioni su 78 milioni, il 36%. Magari De Magistris in questo modo potrebbe anche trovare i soldi e andare avanti. No, non dipende solo dal senso civico, guardi, e vado sul GR, perché se potessi non la pagherei nemmeno io la multa. Il problema è che qua ti pignorano tutto, ti arriva Equitalia, vai in cartella esattoriale. Il problema è l'amministrazione, l'efficacia dell'amministrazione. Quando tu sai che tanto ti beccano, ti conviene pagare la multa. Questo è. Io non penso che il milanese la paghi più volentieri del napoletano. È che qua la devi pagare, lì no. GR24 e poi andiamo al primo posto. Il segnale orario vi è offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Focus Economia. Diciotto e otto minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Andiamo alla prima. Volevamo mettere il mezzo miliardo in multe che nessuno riesce a riscuotere a Napoli, mezzo miliardo, perché 79 milioni quelli dell'anno scorso, mezzo miliardo è quello che non ha ancora riscosso il Comune di Napoli, 480 milioni a fine 2016. Però ce n'è un'altra che non so se si può usare questo tema per senso civico, per sensibilizzare anche il Ministero degli Interni e la Polizia di Stato, a cui va, lo dico come premessa, tutto il nostro supporto, appoggio, stima, sia i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, per il lavoro che svolgono e anche per il lavoro che svolgono, aggiungo io, con gli stipendi che hanno molti poliziotti e carabinieri. Perché lo dico? Perché proprio anche alla luce misure di sicurezza straordinarie Taormina, ma ricordate cosa è capitato la settimana scorsa alla stazione centrale di Milano con l'accoltellamento. Allora, sentite questa, perché e andiamo al vincitore, dai. And the winner is la Polizia di Stato italiana, e quindi rivolgiamo questo al Ministero questo appello al Ministero degli Interni. Non è possibile, lo dico in maniera molto chiara, non è possibile che il Ministero dell'Interno nel novembre del 2016 bandisca una gara per l'acquisto di 1300 giubbotti antiproiettile per la Polizia di Stato, antilama sotto camicia, quindi quelli, diciamo, che purtroppo è per dinamiche che abbiamo raccontato la settimana scorsa con quanto è avvenuto alla stazione centrale di Milano, con l'opzione di altri 850 per un totale di spesa di 800.000 euro. Dal punto di vista della spesa è chiaro che peggio il Comune di Napoli con mezzo miliardo di multe non pagate, però qui ne va della sicurezza delle nostre forze dell'ordine che garantiscono la nostra sicurezza, quindi l'abbiamo voluta mettere al primo posto volutamente. 800.000 euro IVA esclusa da fornire alla Polizia di Stato. Vince una ditta italiana in collaborazione con una seconda società estera. Tutto bene, insomma benissimo. Per il cambio di materiale, anche perché i vecchi giubbotti antiproiettile hanno enormi problemi, perché hanno le placche, sono vecchie, insomma bisogna sostituire i giubbotti antiproiettile. Vengono comprati questi, viene aggiudicata la gara per questi 850 più un'altra fetta dopo, 1300 più 850 come opzione. Allora, dopo l'aggiudicazione, il giubbotto antiproiettile sotto camicia, antiproiettile e antilama, viene messo presso il balipedio del Banco Nazionale di Prove, viene testato. Prove tecniche antilama e antiproiettile. Allora, i sotto camicia non superano 3 su 3 test previsti, cioè il materiale è scadente, per cui non proteggono, non avrebbero retto eventuali colpi o tentativi di accoltellamento. Per cui tu sei un agente di polizia, pensi di essere protetto, in realtà non reggi neanche al tentativo di accoltellamento. Quindi bisogna rifare un nuovo bando e una nuova gara. Questo perché il Ministero tende a fidarsi a realtà che forniscono materiale a basso costo, oppure, peggio ancora, a costi molto alti ma senza la giusta qualità. Io lo dico a capo della Polizia Gabrielli, al Ministro dell'Interno Minniti, che stimiamo, per favore metteteci subito un rimedio, anche perché c'è il tema dei caschi in dotazione alla Polizia di Stato, i caschi non sono balistici, per cui in caso di proiettile vagante il rischio è molto alto, con il bando per i giubbotti antiproiettile antilama, i sottocamicia, il Ministero ha bandito anche una gara per l'acquisto di 12.000 caschi protettivi per l'ordine pubblico, con l'opzione di altri 14.000 caschi al costo complessivo di 8 milioni di euro, 650 euro l'uno, IVA esclusa. Ha richiesto il modello chiuso che solo una ditta, peraltro italiana, poteva fornire, quindi non lasciano spazio ad altre ditte. Peccato che i caschi presi sono resistenti al fuoco ma non ignifughi, il che vuol dire che in caso di lancio di Molotov il rischio è che si fondano, cioè, non sto scherzando. Allora, il sindacato dei poliziotti COISP l'ha denunciato. E tra l'altro ci sono gravissime anomalie tecnico-logistiche nei giubbotti antiproiettili, gli altri che si bucano in sede di collaudo, i kit antisommossa che devono essere aggiustati con un cacciavite. Il Ministero a suo tempo aveva risposto di aver già distribuito 2.500 giubbotti marca NFM e 3.427 marca Grassi, che alle prove balistiche avevano avuto esito positivo. Però attenzione, perché la ditta NFM è bandita dalle gare dell'esercito svedese per falsificazione documentale. Allora si chiede al Ministero: ci si può affidare a ditte che ha lo stesso costo di quelle dei bandi indicato nel bando italiano, forniscono già alle polizie estere materiali di alta qualità e soprattutto l'incolumità ogni giorno? Se poi regge alle prove balistiche una ditta italiana, siamo ancora più contenti, ma non si può scegliere il passaporto sulla salute e sulla pelle in senso letterale, oltre che figurato, dei poliziotti. Non faccio neanche l'applauso, perché non ho voglia di fare l'applauso su una cosa del genere, perché la trovo gravissima, altro che tanta retorica sulla sicurezza. Rifate il bando, fate anche una bella inchiesta su chi ha vinto il bando e poi non reggono a tre test su test balistici, porca miseria, con i coltelli, e speriamo che l'ISIS non sia in ascolto della classifica. Voilà. Mauro Atti, fondatore di Aferetica, buonasera. Buonasera a lei. Allora, specifico che abbiamo scelto voi perché oggi, ahimè, e in queste giornate, come dal nostro reportage Raffaella Calandra, ricordiamo anche il terremoto che colpì la zona di Mirandola e di tutta, diciamo, la zona tra Modena, Reggio Emilia e Mantova, e voi avete sede proprio a Mirandola. Quando siete nati? Ah, noi siamo nati nell'immediato post-terremoto, alla fine del 2013 è stata fondata la società e abbiamo cominciato la nostra avventura di start-up all'inizio del 2014. Venivamo da un'esperienza con una grande azienda del territorio, io e il mio socio abbiamo deciso di cominciare questa nuova avventura. Ho cominciato da solo praticamente, dentro a un container del post-terremoto. Oggi abbiamo 10 dipendenti, abbiamo chiuso l'anno scorso con 1.300.000 di fatturato, conto di raddoppiare anche quest'anno. Chi vi ha dato i soldi? Chi vi ha aiutato? Allora, innanzitutto ci siamo aiutati da soli, perché abbiamo messo nella società i nostri fondi, i nostri risparmi. Dopodiché devo dire che in questi anni abbiamo avuto un supporto dalle banche abbastanza consistente. Bene. Credo che sia dovuto anche al fatto che non siamo esattamente degli start-upper, ma siamo un po' sul generis, perché non siamo propriamente ventenni, abbiamo 30 anni di esperienza alle spalle, per cui ci conoscono abbastanza bene, penso che abbiamo delle buone idee. Poi credo che dobbiamo dire grazie anche a Monti, che alla BCE, che a Mario Draghi, che in qualche modo ha aiutato le banche a essere più espansive, diciamo così. Quanto fatturate e quanti dipendenti avete? Quest'anno, l'anno scorso abbiamo fatturato 1.300.000, partendo da zero praticamente. Quest'anno contiamo di raddoppiare, direi che ci riusciamo, e abbiamo un business plan che prevede di raggiungere un fatturato di 10 milioni di euro entro il 2020. Visto che ricordavo anche il terremoto, appunto, che ha colpito la zona di Mirandola, Reggio Emilia, Modena e il Basso Mantovano, la situazione del distretto biomedicale mi sembra che comunque gravemente era il 20 maggio, prima il 20 maggio, poi il 3 giugno del 2012, noi abbiamo dato atto del fatto che l'attività è ripresa al 100%. Lei questa cosa lo verifica, nel senso che avevate avuto complessivamente nell'area 13 miliardi di euro di danni? Sì, guardi, io in quel periodo dirigevo un'altra azienda, una grossa azienda del territorio, di cui ho seguito in parte poi tutta la ricostruzione. Io penso che la storia del distretto di Mirandola è una bella storia per tutta l'Italia. Il distretto ha ripreso, non solo ha ripreso, ma ha incrementato la produzione, quando parlavate prima dei del record di esportazione dell'Italia in questo periodo, io credo che il distretto biomedicale abbia dato un grosso contributo, abbiamo aumentato in maniera importante l'esportazione. Mi dica in una battuta, perché non si è capito che cosa fa Aferetica, però esattamente. Allora, noi siamo partiti pensando... No, adesso che doveva dirmelo? No, perché questo non ci voleva. Allora, Aferetica lo recuperiamo subito. Nel frattempo vedo che molti stanno suggerendo... al primo posto abbiamo messo i test balistici che non hanno superato i giubbotti antiproiettili antilama, di eseguire i test con chi ha amministrato e firmato le gare dentro il giubbotto. Beh insomma, se tu sai che poi il test lo fanno con te stesso, stai più attento a che contratto vai a firmare, onestamente, prima che lo sperimenti il poliziotto che sta lavorando in strada. Forse chi firma il contratto potrebbe, visto che è così sicuro il contratto che ha firmato, fare anche da cavia sulla validità e congruità ai parametri del giubbotto. Non è male l'idea. Abbiamo ripreso Atti a 30 secondi per dirmi cosa fa Aferetica, però. Aferetica, partendo dall'esperienza sulla depurazione del sangue, abbiamo pensato di utilizzarlo in campi nuovi. Facciamo sistemi per la perfusione e la depurazione degli organi destinati al trapianto. Vale a dire organi che non vengono più semplicemente conservati in ghiaccio, ma vengono perfusi in modo da ricondizionarli e permettere di trapiantare organi che non sarebbero mai stati impiantati. Abbiamo già degli ottimi risultati. Allora, in bocca al lupo a lei, ai suoi 10 dipendenti, nella speranza che diventino di più, come sempre. Grazie anche per questa settimana a Mauro Atti, fondatore appunto di Aferetica, e complimenti a tutte le aziende, non solo del biomedicale, a partire da quello del biomedicale dell'area distrutta parzialmente dal terremoto, e quindi le aree che citavo, Mantova, Bassa Mantovano, Reggio Emilia e Modenese, per come sono riusciti a rimettersi in piedi grazie anche all'aiuto dello Stato, delle banche, per carità, e all'esempio virtuoso che rappresentano. Andiamo sul traffico. Focus Economia. Dunque, la borsa oggi si chiama soprattutto tema delle due banche, Popolare Vicenza e Veneto Banca, ma non sulle due banche, sulle altre banche che fanno parte del consorzio Atlante. Questo, infatti, l'incertezza ha appesantito Unicredit meno 1,20%, ma anche Intesa San Paolo meno 1,60%. Eni sul prezzo del petrolio si muove e perde il 2,32%, anche se faccio notare che resta a $49 al barile. Saipem meno 2%, mentre per quello che riguarda Unipol meno 1,80, Ferragamo continua a perdere l'1,70%, terzo giorno di calo, ha perso il 10% in tre sedute dopo le indicazioni sul 2017, considerate non così positive dal mercato. Faccio notare che è andata molto bene Mediaset oggi, perché più 4,20% c'è stato l'avvio dell'asta per i diritti della Serie A, e il mercato scommette che Mediaset riesca a aggiudicarsi parte di quest'asta. Moncler più 2,70, Campari più 2,20, Leonardo più 2%. Ma ripeto, il tema è banche venete e la richiesta di Bruxelles, a sorpresa del commissario europeo, no, per fare l'aumento di capitale da 6,4 miliardi, un miliardo in più rispetto a quanto atteso, deve essere a carico dei privati. E quindi, diciamo, la parte che riguarda il contributo dello Stato sarebbe di un miliardo in meno. Continuiamo a avere ospiti in questo periodo sul tema. Ricorderete forse l'intervento dell'economista Luigi Zingales, che ha detto: ma insomma, l'Italia dovrebbe andare avanti, poi casomai farsi beccare una procedura di infrazione su questo. Giro la domanda a un altro editorialista del Sole 24 Ore in temi di bancari e di finanza, il professor Donato Masciandaro, che insegna politica economica all'Università Bocconi di Milano. Buonasera, professore. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Allora, vista la situazione in cui sembrava tutto a posto, il governo ha fatto 20 miliardi, di cui una parte ha messo 20 miliardi con salvabanche, di cui una parte servono appunto a Veneto Banca e a Popolare di Vicenza per evitare il bail-in, che vorrebbe dire che poi avresti un problema con tutti gli obbligazionisti subordinati di qualunque livello, ma anche con i correntisti sopra i 100.000 euro. L'Europa si inventa 1 miliardo di euro in più. Dico che si inventa perché nel passato, prima del bail-in, 123 miliardi ha messo il governo tedesco, 64 quello irlandese, 35 quello olandese, per salvare le rispettive banche nazionali. Lei è dell'idea che Padoan debba far sentire di più la sua voce e l'Italia debba andare dritta per la sua strada e casomai apriamo una procedura di infrazione? Beh, direi che la prima cosa da notare è quanto il mercato creda a un atteggiamento con la schiena rigida dell'Italia. Ormai siamo abituati a vedere tre tipi di notizie sui mercati, utilizziamo i colori del semaforo: se la notizia è cattiva c'è un rosso, se è buona c'è un verde, però ci sono anche notizie che non fanno notizia, tipo ormai le affermazioni del presidente Trump. Bene, oggi il fatto che i mercati abbiano punito le banche italiane vuol dire che non credono molto alla capacità del governo italiano di tenere la schiena dritta, purtroppo. Cioè, schiena dritta vuol dire di andare a muso duro con Bruxelles e dire no, dopo che tutta Europa con centinaia di miliardi si è salvata le sue banche, adesso c'è il bail-in, volete che l'Italia sia la cavia per fare contenti i tedeschi e olandesi del primo bail-in nella storia, e lo volete fare su due banche che, insomma, su cui noi la soluzione abbiamo già trovato? È questo che dovremmo dire noi a Bruxelles, Masciandaro? Qualche mese fa in questi termini personalmente mi ero espresso anche sul tema dell'utilizzo, del considerare il nostro fondo di assicurazione come un intervento pubblico. Purtroppo il potere contrattuale del nostro paese è sistematicamente indebolito dal fatto che continuiamo a giocare col cappello in mano sul tema della flessibilità legato alle regole fiscali. Se fossimo più seri su quel fronte lì potremmo tenere la schiena dritta anche sui temi bancari. Cioè, dice, il fatto che andiamo a chiedere deroghe sul deficit poi ci indebolisce quando abbiamo i temi bancari? Sì, perché è ridicolo. Il nostro paese non deve rispettare le regole sul deficit, non per l'Europa, ma per la sostenibilità del suo debito. Quindi il cappello in mano sul deficit e il debito è innanzitutto una maleducazione nei confronti dei cittadini che pensano che il problema del deficit e del debito siano richieste dall'Europa. No, questo è un problema del paese. E se vai con il cappello in mano su deficit e debito, puoi non ti meravigliare che non sei credibile quando vuoi alzare la voce sulle banche. Mi scusi, professor Masciandaro, ma secondo lei come finirà questa vicenda? Perché oggi i consigli di amministrazione delle due banche sono disperati. Le dichiarazioni che abbiamo visto dei relativi vertici, aspettiamo la palla. Dunque, Mion, eccolo qua, presidente della Polare di Vicenza. Siamo nelle mani del governo. Guzzetti, presidente della Fondazione Bancaria, non mettiamo neanche più un euro. Addirittura ha circolato voce di una dimissione possibile di Viola. Come finirà? Beh, io ripeto, i mercati pensano che finirà male, se no non avrebbero punito le banche. La situazione è di molta incertezza. Se non ci fossero state reazioni, voleva dire che la minaccia di Bruxelles non ha un significato preciso. Prendiamo qualche giorno fa, c'è stato un terribile attentato, ma i mercati non hanno finto di non accorgersene. Perché? Perché non c'era un chiaro segnale. E qui il segnale è evidente, i mercati non credono al fatto che l'Italia sappia far valere le sue ragioni nel tema bancario. Ovviamente io mi auguro che i mercati si sbagli. Sì, ce lo auguriamo tutti, ma soprattutto ci auguriamo che l'Italia sappia far valere le sue ragioni. Grazie anche a Donato Masciandaro. Chi mi chiede l'IVA, il Ministero ha precisato che non c'è nessuna vittoria della gara, ma solo una classifica, diciamo, fornita dai commissari. Noi comunque ne parleremo lunedì, non c'è ancora l'aggiudicazione della gara a nessuno, quindi è solo la classifica delle due cordate stirata dai commissari. Intanto ringrazio Mauro Del Conno e Barbara Bianchi, come sempre, per l'assistenza in redazione anche questa settimana. Auguro a tutti voi un buon fine settimana, soprattutto a partire da chi dovrà trascorrerlo lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.